falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Questa non è una puntata come le altre. E lo sapete, noi raccontiamo storie di persone che hanno lasciato una traccia con la loro vita, personaggi dello sport, dello spettacolo, della cultura, però in genere si tratta di persone in qualche modo lontane da noi. Ecco, questa volta è tutto diverso, perché noi stiamo raccontando un pezzo di noi, un pezzo della nostra famiglia, della famiglia del Falco e il Gabbiano, un pezzo di questa radio, una persona senza la quale il Falco e il Gabbiano sarebbe stato una trasmissione diversa. Oggi voglio raccontarvi la storia di Francesca Del Rosso. Intanto è una ragazza che di puntate ne ha firmate tante, e oggi è la sua vita che è al centro del nostro racconto. Una vita che si è conclusa esattamente un mese fa, e tutto questo ha lasciato un segno profondo non solo nel nostro cuore, ma nel cuore di amici, di colleghi che hanno fatto un pezzo di strada con lei, ma anche in quello di migliaia e migliaia di persone che non hanno avuto la fortuna di conoscerla direttamente, ma che però hanno letto i suoi libri, l'hanno vista in televisione parlare della sua battaglia contro il cancro, che hanno seguito il suo blog su Vanity Fair. E per questo le dedichiamo questa puntata, non solo per ricordare una nostra amica, per salutarla, però soprattutto per raccontarvi tutti i suoi colpi d'ala di un volo che, per quanto molto breve, troppo breve, è stato veramente intenso, ricco, ha colpito la sensibilità di tanti. Lo faremo attraverso le sue parole, attraverso i suoi libri, le sue interviste, attraverso le parole di chi ha vissuto accanto a lei, il marito e il nostro collega Alessandro Milan, che ha scritto, lo sapete, una lettera di addio meravigliosa, struggente e difficile da leggere. Però una lettera che è stata letta e che ha commosso milioni e milioni di persone. Inghiottiranno per intero le traiettorie della mente. Io ho conosciuto Francesca quando ho conosciuto, insomma, tutta la squadra del Falco e il Gabbiano. In qualche modo è nato tra noi un rapporto particolare, affettuosamente competitivo, perché lei mi dava del maschilista e io le davo della femminista, e quindi in qualche modo ci prendevamo molto in giro. Però una cosa che voglio dire era la sua incredibile determinazione nel difendere le storie che proponeva. Lei, poi lo vedremo, insomma, è stata una viaggiatrice, una donna curiosa, una donna combattiva, e quindi in qualche modo anche il taglio che dava alle storie alle quali lavorava era assolutamente in sintonia con il suo essere. Sono Francesca, ma alcuni mi conoscono come Wandy, giornalista, scrittrice, blogger e sperimentatrice. Amo i viaggi intercontinentali e le sfide. E in questa descrizione scritta da lei sul suo sito personale c'è tanto di Francesca: i viaggi che lei adorava, la scrittura, le sfide, ma soprattutto c'è quella parola giornalista che rappresenta il suo primo vero amore. Nata a Milano, 1 giugno 1974, lei incontra la sua grande passione, cioè lo scrivere, mentre sta frequentando lo scientifico, perché collabora alla redazione del giornalino dell'istituto. E poi arriva all'università, arriva alla facoltà di filosofia, e lì si mette davvero alla prova. Lei entra nella redazione di Sei Milano, siamo nel 95, quindi lei, giovanissima, riesce, rispondendo a uno strano annuncio sul giornale, a affacciarsi alla prima esperienza lavorativa. È una nuova emittente, sta cercando, dicono testuale, 60 giovani da buttare in mezzo a una strada, e quindi sta cercando di formare una classe di giornalisti che stiano vicino alla gente, che stiano a contatto con le notizie, con le pulsioni del paese reale, come si direbbe oggi. Ecco, Francesca è perfetta e si lancia a modo suo in questa avventura. È una scuola per lei. E poi